Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Milan, hai una faccia come dice Giachetti. Vergognati un'altra volta, Milan. Uno, nessuno, 100 Milan. Di Alessandro Milan con Leonardo Manera. 9-8 minuti, ci siamo cari ascoltatori. Aspettate che c'è una mascherina che mi pende dall'orecchio e non è simpatica per chi è collegato su Facebook a guardarci in diretta TV. Allora, siamo qui nel giorno in cui si chiude la quinta settimana decisiva per la riforma elettorale. Ai, non è stata neanche questa quella decisiva, ma c'è la sesta alle porte e noi siamo ottimisti. Vero Carmelo Lauricella lì in regia? Sei ottimista? Fa un cenno di sì con la testa, non ha capito bene quale sia la questione. Comunque, 800 24 00 24, c'è insieme a Carmelo la nostra redazione, Lorenzo Nespoli, Miriam Lucchetti ed Elisabetta Fusconi. Andare uno contro uno, accelera, nel rigore, la chiude lui la prima volta con la maglia del Milan per Oge. 3-1, vince il Milan al Celtic Park. Vince il Milan. Vabbè, dai, restiamo umili, siamo una squadra da sesto posto, ricordiamolo, e lì arriveremo. Andiamo avanti con il 349-238-6666, che è il numero di SMS, il numero di WhatsApp. Siamo qui con voi e siamo pronti a una puntata ricca di temi. Vai! I will not be easy, and it will not be easy. Confess, I guess I was the lesser of the two evils. Convalescent by the stress, the test closed. Had me up and on the board, now I'm chairman of the board. I'm coming back for sequels. Do you ever really think you won? Now you're feeble. Nothing on this far gone sun. Signori, io voglio ricordare che da 51 giorni ci sono 18 pescatori partiti da Mazara del Vallo e sono detenuti a Bengasi. Non si capisce con quale accusa. L'accusa di spaccio internazionale di droga è decaduta, sembrava una boutade. Sono lì, un po' nel silenzio generale. Io tengo questa conta quotidiana. Ieri, per la verità, le Iene sono andati a pizzicare Di Maio. E guardate che dice una frase interessante che va spiegata però. Sentiamo il ministro degli esteri alle Iene. Noi non abbiamo servizi di scorta ai pescherecci. Qui il tema, però parla di questo. Il tema è molto semplice. Abbiamo i pescherecci italiani che sono entrati in un'area non autorizzata. Quell'area è un'area sotto il controllo di truppe militari. Cioè, capite quello che dice Di Maio? Sono in pratica andati a cercarsela in una zona pericolosa, in una zona militare. Per chiarezza, in realtà bisognerebbe dire che quella zona di acque è una zona di acque internazionali per tutta la comunità internazionale, che la Libia di Haftar ha autoproclamato, senza nessuna altra autorizzazione, autoproclamato come zona di acque di prevalente interesse economico libico. Che poi, voglio dire, è come dire che uno se le va a cercare. Allora, io mi è venuto in mente questa cosa, ma che facciamo? Non so, vi cito questo nome, Alberto Cairo. Alberto Cairo è un ortopedico che da 40 anni lavora in Afghanistan, prima per la Croce Rossa Internazionale, mettendo arti artificiali, gambe, braccia agli afghani che sono saltati sulle mine. Che facciamo se gli succede qualcosa? Andiamo a dire che, ma se l'è andata a cercare in quel paese? Ma è pericoloso, è sottilmente pericoloso il messaggio, secondo me, del ministro Di Maio, come dire, hanno sbagliato questi pescatori. Non lo sappiamo. E comunque da 51 giorni sono lì. Ma signori, io voglio parlare di altro oggi, non c'è solo il Covid, come sapete. Oggi, qui a Radio 24, uno nessuno 100 Milan, io voglio raccontarvi una storia. È la storia, secondo molti, di un complotto. È la storia di un atleta, di un uomo, che per la prima volta sbagliò. facendo ricorso al doping e per quella vicenda ha pagato. E poi una seconda volta ha pagato. E però questa seconda volta è macchiata da molti dubbi, tanto che qualcuno usa, Repubblica lo ha fatto in una lunga inchiesta di recente, la parola complotto. Nuovo caso doping travolge Alex Schwarzer. Il marciatore altoatesino sarebbe risultato positivo ad una controanalisi. Per il suo legale si tratta di accuse false e mostruose. Alex Schwarzer ci sarebbe ricascato, di nuovo positivo a un controllo antidoping. Una notizia clamorosa che riporta in prima pagina la Gazzetta dello Sport. Accusato di essere di nuovo positivo al doping, il marciatore Alex Schwarzer, ma lui replica: questa volta non ho sbagliato. Oggi non ci saranno nessune scuse, non devo scusarmi per nessun errore che non ho fatto, come 4 anni fa, lì ho sbagliato, stavolta io non ho fatto nessun errore. Io saluto Alex Schwarzer, buongiorno e grazie di essere qui a Radio 24, Alex. Buongiorno, grazie a lei per l'invito. Allora, Alex Schwarzer, lei userebbe la parola complotto senza ombra di dubbio, perché è una parola ovviamente molto molto grave. Lei si sente di utilizzare questa parola per la sua vicenda? Sì, me la sento di usare perché se questo controllo sarebbe stato, diciamo, un controllo normale, no? Chiamiamolo così, non sarebbe stato positivo perché non mi sono dopato, ok? Quindi posso usare la parola complotto perché alla fine però c'è questa positività che è stata riconfermata, no? E quindi per forza ci deve essere stato qualcosa con queste urine, che da urine negative, come sono partite da casa mia, poi mesi dopo sono invece risultate positive. Ci sono degli uomini importanti in questa vicenda. Uno è il comandante dei RIS di Parma, il tenente colonnello Lago, perché queste urine che sono state prelevate, ricordiamo, il 1 gennaio, il giorno di Capodanno, sono venute nel 2016 a casa sua a fare questo controllo. Sono state diverse ore in mano a diverse persone, non ben controllate, quando con estrema difficoltà il comandante dei RIS di Parma è riuscito a impossessarsi di queste urine e analizzarle, ha scoperto che c'era una concentrazione di DNA che letteralmente, messo tra virgolette, è non umana. Cioè, cosa vuol dire non umana, Schwarzer? Ma vuol dire che, diciamo, la concentrazione del DNA che è stata rilevata è semplicemente troppo alta. Cioè perché, non può appartenere a un essere umano, non può appartenere a un essere umano di fatto. In questo caso no, perché le urine, quando il colonnello le ha analizzate, erano già vecchie 2 anni e 2 mesi, perché sono state per un anno, in pratica queste urine sono restate in Germania e non sono state date al colonnello Lago, ok? Quindi la concentrazione nelle urine col tempo cala rapidamente, e io però in queste urine anche dopo 2 anni e 2 mesi avevo una concentrazione come pochi altri l'avevano in urina fresca, ok? E quindi la conclusione è che queste urine sono state ritoccate, e perché appunto se fossero state vecchie 2 anni e 2 mesi la concentrazione del DNA doveva essere molto molto molto più bassa. Sì. C'è un'altra persona che io conosco bene perché spesso l'abbiamo invitata, che è il suo ultimo allenatore, Sandro Donati. Ragazzi, questi cari ascoltatori forse voi non lo conoscete bene, ma Sandro Donati in maniera indubitabile è l'uomo che da 30 anni combatte in maniera più chiara il doping a livello mondiale, tanto che è vero, Schwarzer, che lo stesso Donati gli ha detto una volta, le ha confidato che è stato lui ad avere i sospetti su di lei la prima volta e quasi a farla beccare, a denunciarla. Sì, sì, è corretto questo. Sandro ha, diciamo, è uno che non guarda in faccia a nessuno, no? Se uno sbaglia, lui lo fa notare. E, qui, e questo è stato anche nel mio caso, giustamente, io non me la sono mai presa con lui, perché in quel momento lì lui faceva la cosa giusta e io quella sbagliata, ecco, quindi... Ha fatto il suo lavoro, tanto che quando lei ha deciso di tornare, che cosa ha fatto? Un gesto clamoroso, che sembrava quasi una favola, ha chiamato proprio Sandro Donati a dire: Sandro, adesso mi aiuti a tornare questa volta in maniera pulita. E sembrava davvero tutta una vicenda incredibile, i tempi stupendi, le Olimpiadi alle porte, tanto che qualcuno qui, si evoca appunto la questione complotto, dice forse è stato fatto tutto questo per farla pagare anche a Sandro Donati, più che a Schwarzer. Lei che ne pensa? Ma ecco, io posso solo dire la mia opinione e concordo con questo, perché comunque... nel periodo dove io mi stavo allenando con Sandro alla stessa WADA, per la quale lui ha fatto dei lavori importanti, la WADA è l'agenzia nazionale, l'agenzia mondiale antidoping, no? La WADA ha chiesto più volte a lui di non usare più il nome consulente WADA, cioè, quindi c'è stata non solo nei miei confronti quando sono tornato, diciamo, ci sono stati messi degli ostacoli, ma anche a lui stesso, no? E anche, diciamo, tanti, diciamo, suoi nemici storici di 30 anni fa, che ancora probabilmente non gli hanno perdonato le denunce che lui ha fatto tanti anni fa, e adesso si ritrovano di nuovo in questa mia storia tutte persone che io non ho mai conosciuto in vita mia, ok? Quindi probabilmente è così, ecco. Per aver fatto pagare anche lui. Senta, però, per correttezza, il Tribunale Arbitrale dello Sport a Losanna dice che non c'è alcun elemento che possa giustificare una qualsiasi accusa contro la nostra istituzione. Questa è la posizione ufficiale, cioè non è vero quello che si dice della manipolazione delle urine, questo secondo gli organismi sportivi internazionali. Perché uno dovrebbe credere invece a lei? Ma allora, innanzitutto, noi abbiamo fatto questa richiesta al tribunale svizzero, che è l'ultima istanza dopo il tribunale sportivo, un anno fa, dove le indagini erano ancora in corso, ok? Perché questo l'abbiamo fatto? Perché quando l'abbiamo fatto, le Olimpiadi dovevano esserci quest'anno e io avevo solo questa possibilità di partecipare, ok? Quindi, pur non avendo la certezza, abbiamo tentato di fare il ricorso. E io ho sempre detto che sarà molto molto difficile che lo accettino, sì. Ok? Adesso a Bolzano... tra poche settimane si chiuderà il processo penale, c'è una perizia ben chiara, ci sono altre cose importanti come una confessione via email, eccetera, eccetera, e quindi la cosa cambierà molto, ok? Quindi... E perché deve chiedere, perché deve uno deve credere a me? Ma è semplice, io voglio ricordare che io le Olimpiadi le ho già vinte senza doping, okay? A Pechino, certo. Io non sono partito come atleta dopato, io per un periodo molto brutto dove io sapevo del doping sistematico russo, ok, e nessuno ancora lo scriveva, perché non, anni dopo poi è emersa tutta la questione del doping di Stato della Russia, ok? Io in quel periodo lì, è stato un periodo brutto, io ho sbagliato perché mi ero messo in testa di fare un po' come loro, però io non la mia idea di fare sport è tutta un'altra, ok? Cioè, lei dice, anche sì, stato, sì. Tra l'altro è stato anche questo il motivo perché io ho chiesto a Sandro, perché io A, sono convinto delle sue capacità di allenare, ma io sono anche convinto delle mie capacità atletiche. Sì, io dico una cosa, aggiungo due cose, mi scusi. L'ultima cosa, sì, perché prego. altrimenti avrei fatto perdere, non sarei più tornato se la mia idea è senza doping non riesco a vincere, no? Avrei fatto altro nella mia vita. Sì, io aggiungo due cose, che Sandro Donati è stata una delle persone che più ha denunciato anche tutta quella vicenda russa che lei, a cui lei fa riferimento. Aggiungo anche una considerazione personale per gli ascoltatori, bisognerebbe essere un pochino stupidi per affidarsi a chi? A Sandro Donati dicendo torno pulito e ridoparsi. Ma questo, voglio dire, non è una considerazione che può lasciare anche il tempo che trova. Ecco, facevo questa considerazione questa mattina, dice, ma perché uno è così poco intelligente da dire chiamo l'uomo che più combatte il doping da 30 anni, mi alleno con lui per dimostrare di tornare e mi ridopo. Cioè, veramente. Però Schwarzer, molte persone dicono ma andava radiato per sempre, se sbaglia una volta questa cosa non bisogna mai dare nessuna possibilità. Lei di fronte a questa posizione molto dura cosa risponde? Io mi sono accorto che nella vita tutti sbagliano, probabilmente questo nello sport non è il caso, perché ci sono tante persone, tanti atleti che probabilmente non sbagliano mai nella loro vita, ok? E quindi c'è questo discorso lo fanno più, si fa più nell'ambito sportivo, ok? C'è questa durezza estrema, di dire. Io vorrei però dire anche una cosa, se questo se si chiede questa cosa deve valere per tutti, non solo per gli atleti, ma anche per i dirigenti corrotti che prendono i soldi per insabbiare il doping, che poi sì, magari prendono una mini squalifica, dopo un anno si trovano di nuovo nello stesso posto, deve essere anche applicato per i medici, per gli allenatori, per tutti quanti. Invece lei dice paga sempre, paga sempre solo l'atleta. Sì, è certo, è sempre molto molto comodo, no? La positività è quella dell'atleta, quindi togliamo l'atleta e il problema è risolto, questo è il ragionamento molto semplice. Sa qual è il problema? Okay. Che le persone sognano con la sua medaglia d'oro a Pechino, sognano, e quindi i tifosi, e quindi in qualche modo si sentono traditi, non dal medico, non dal dirigente, ma si identificano con l'atleta che compie l'impresa. Sì, però c'è un sistema, diciamo, lei dice, c'è un sistema, diciamo, che diciamo che l'atleta si prende la squalifica, finisce nel dimenticatoio e tutto il resto va avanti. Certo. E questo secondo me non è giusto, anche perché poi tanti atleti da questo tunnel nel quale poi si trovano non escono più, okay? Quindi possono anche fare una fine non proprio bella, ecco, quindi no. Ma infatti, esatto, il tema complotto secondo molti è proprio legato anche a questo. Quando lei la prima volta confessò e fece anche dei nomi dicendo appunto guardate che non è che uno atleta si sveglia un giorno e da solo decide di prendere il doping, ci sono delle persone intorno, c'è uno staff, ci sono dei medici, ci sono... E forse qualcuno dice le hanno voluto far pagare anche questo volere tirare in mezzo anche altre persone. Ma questo io non lo so, non lo posso dire perché non ho nessuna. È un'opinione mia, può essere un'opinione mia. Okay? Io quando ho deciso di tornare con Sandro Donati, io gli ho detto decidi tu il sistema di controllo, io sono disposto, cosa che poi abbiamo anche fatto, sì. dei controlli extra che io ho pagato di tasca mia e poi tutto quello che tutti quelli che secondo me hanno sbagliato, io questo lo dirò davanti alla giustizia ordinaria e quella certo. sportiva, cosa che poi ho fatto, ecco. Se allora. Poi è giusto o no, io in quel momento lì l'ho trovato giusto, lo trovo tuttora giusto e l'ho fatto. No, no, ma è chiaro, lei vuole far capire che se uno sbaglia una volta nella vita paga, però non deve pagare se ritiene di non avere fatto nulla di male. Alex Schwarzer, noi ci risentiremo. Io le chiedo un'ultima cosa. Intanto so che le devo fare gli auguri perché è ridiventato papà da una settimana, se non sbaglio. Ci saranno dei pannolini e delle notti in bianco, immagino, credo sia il secondo figlio. E questo le tocca, lo sa. Sì, ma lo fa, si fa volentieri. Si fa volentieri. È una cosa stupenda. Mi dica in conclusione, proprio così onestamente, quante possibilità ci sono secondo lei di essere riabilitato e magari di rivederla a Tokyo alle Olimpiadi? Perché mi dicono che i tempi adesso di Schwarzer in allenamento sono ancora dei tempi clamorosamente competitivi. Una percentuale. Allora, percentuale è un po' difficile, domanda molto complicata. Vabbè, allora una sensazione, di cosa pensi? No, allora io sono convinto che a Bolzano a livello giudiziario uscirà per bene tutto quello che è successo veramente. Mm-hmm. Poi la questione sportiva, siccome le due cose non vanno in parallelo, sì. La mia sensazione è che le percentuali sono molto basse. Sì. Perché diciamo, anche se per esempio viene fuori il fatto che io non ho commesso il fatto appunto, ma che tutte queste prove dovevo già esibire a Rio, quindi in un mese, quello che io da privato in un mese dovevo fare tutto quello che adesso la giustizia ordinaria ha fatto in 4 anni, è possibile che mi si chiede questa cosa, sì. Quindi anche se io risulto innocente non è detto che questa cosa viene subito accettata. Sì, quindi lei potrebbe essere innocente per la giustizia ma per lo sport colpevole tra virgolette, ecco. Sì, esatto, sì. Quindi percentuale non lo so, se la federazione e il CONI si mettono, mi danno un aiuto, che anche loro si esprimono, magari si arriva a un 20-25%, sì. Possibilità, ma non di più, non di credo. Più, non di più. No. Vabbè, in no. Bocca al lupo, auguri, grazie Alex Schwarzer per essere stato con noi. Grazie a lei. E grazie davvero. Poi ci sono tante persone che dicono la loro, tantissimi che danno attestati di solidarietà, altri criticano. È il bello della nostra trasmissione, anche quando ieri ho annunciato sui social la presenza di Alex Schwarzer, ringrazio moltissimo la redazione e la manager di Alex Schwarzer che ha deciso di parlare qui a Uno Nessuno 100.000, la nostra redazione, Elisabetta Fusconi, Miriam Lucchetti, Lorenzo Nespoli, perché ci sono loro dietro il lavoro della trasmissione per portare anche degli ospiti e di Carmelo Loricella, bravo per portare gli ospiti a parlare qui. Noi come dire, forniamo il microfono a storie, a persone che raccontano, poi il giudizio ve lo fate tranquillamente ascoltando e dando le vostre idee. Ieri quando ho annunciato sui social la presenza di Schwarzer si è molto scatenato un dibattito, ma perché date voce, perché non date voce, è giusto, è sbagliato, è un complotto, non è vero. Ascoltate, poi leggete, per esempio di recente c'è stata una bellissima inchiesta di Repubblica, di Carlo Bonini, Attilio Bolzoni e Fabio Tonacci, che hanno ricostruito per filo e per segno quello che nel quotidiano Repubblica viene definito proprio il complotto che lo ha distrutto. Uno legge, si informa e poi si fa un'opinione. Questo è il senso che intendiamo noi di giornalismo qui a Uno Nessuno 100.000. Un attimo di pubblicità e rientriamo. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Uno, nessuno, 100.000. Riguardo i pescatori, ci sono i GPS marittimi, quindi non è che uno può sbagliare, basta andare a vedere la loro rotta, perché quella per forza ce li hanno tutti i pescherecci, tutte le navi che si spostano, figuriamoci poi se vanno in acque internazionali non ce li hanno, basta andare a vedere quelli e si vede dove sono andati, se erano in acque internazionali o se erano in acque libiche. Secondo me Di Maio non ha detto che se lo sono andato a cercare, ha detto che in quell'area lì ci sono i militari libici e che l'Italia non ha nessuna intenzione di andare lì con i militari a innescare una guerra. Ripeto, poi appunto come dice l'ascoltatore bisogna andare a vedere dove sono stati presi, fermati. È controversa la questione, perché sono acque che la Libia unilateralmente in una porzione d'acqua ha stabilito essere sue acque di prevalente scopo economico, ma per la comunità internazionale, noi viviamo in questa, sono acque internazionali. C'è una bella differenza, sa, perché se sono acque internazionali per noi vuol dire che sono andati a prenderle, a catturarli in acque non loro, no? Comunque piove a Milano e dunque Manera. E dunque Leonardo sta a casa. Sì, e sta a casa con un'app. Aspetta, ricollegati, perché non solo sta a casa, ma sta a casa con l'app zoppicante. Perché piove, è venerdì, non hai rinnovato il contratto con la... Eccomi. Eccoti. Leo, ricollegati subito, Leo, butta giù e ricollegati. Risolvi facile, buongiorno. Subentra un panico quando l'app non va, da parte in questo caso di Carmelo Rauricella. Ricollegati subito, Leo, subito! È il panico. Non succede nulla, non stiamo. Ma io avrei un risolvi facile per la questione delle acque internazionali. Bene. Ma scusa, ma perché ogni paese non colora le proprie acque di un... Metti un po' di colorante. Arancione, acque italiane. Non so, vorrei... E poi viola, acque libiche. Ecco. E acque internazionali bianche. E così sarebbe più semplice. Ti ha risposto i 3-3. No? Però stavolta il Leo risolve facile, secondo me andava studiato meglio. Studiato un po' meglio. Ma secondo me andrebbe approfondita la mia idea, perché basta mettere delle piccole barriere che mantengano l'acqua dello stesso colore. E quindi sarebbe diviso per colore. Sì. Ma scusa, non c'è il Mose che blocca l'acqua, non possiamo anche fare l'acqua colorata. Beh, così meglio, è più facile. Facciamo dei grandi Mose mondiali, dei grandi progetti Mose. Tra l'altro sarebbe un modo anche per rilanciare l'occupazione, lo sviluppo in tutto il mondo, certo. Si fanno delle barriere per tenere l'acqua colorata. Anche sai i motori che si incagliano, che poi devono essere rifatti. Bello, voglio ricordare idea, sì, agli ascoltatori che la fanno facile, che non è facile per niente navigare. Io feci un incidente sul lago di Garda con la mia barca. Quindi, no, la barca di tuo padre. La barca di tuo padre, diciamolo, non la tua barca. Sì. Mio padre aveva una barca a vela di 6 metri con la quale si andava. È uno dei ricordi più belli che ho con mio padre. Quando lui tornava dal lavoro, dopo alle 5:30 di pomeriggio d'estate, e allora uscivamo con la barca a vela al tramonto e andavamo a fare il bagno e tornavamo poi verso le 8:30 così per l'ora di cena. Sì, invece una volta, e di solito il timone lo teneva mio padre, non è facile andare in barca a vela, bisogna avere una certa esperienza. Io avevo 12 anni, mio padre andò un attimo nella piccola cabina che c'era e mi disse: tieni tu il timone. Passarono pochi minuti e mio padre uscì dalla cabina trafelato dicendo: cosa è successo? Perché avevo fatto un incidente col barcone della scuola di vela. Però per colpa loro, ribadisco, per colpa loro, perché io navigavo mure a dritta, ecco, per chi conosce la vela. L'abbiamo detto mille volte, quindi insomma che... Ma tuo papà era uscito sembra con quale... che io sia ripetitivo, no, sempre. No, ma scusami, sempre, io vorrei approfondire. Ma quando tuo papà è andato sotto e c'è stata questa collisione, perché quindi c'è stata una collisione, tuo papà quando è riemerso dalla stiva, che cosa, cioè, era sereno, tranquillo? Cosa è successo? Ecco, appunto, perché non è che uno sta nel lago e si aspetta di schiantare. schiantarsi contro qualcosa, no? Il lago è infido, ci sono i mulinelli, come diceva sempre mia madre. Vabbè, hai visto che sono già tornati i giornalisti a caccia di malviventi, per vedere se qualcuno sta già violando il coprifuoco. Stamattina ho visto un'intervista di una giornalista televisiva a un carabiniere che cercava di fargli dire che siamo già indisciplinati, chissà quanti avrete trovato in giro, com'è andata la nottata. Guarda che io ieri mi sono affacciato alle 11 su Viale Monza e c'era molta gente ancora, c'erano diverse macchine, biciclette, forse si affrettavano verso casa. Sì. Ho capito, ma a 1,5 milioni di abitanti Milano, qualcuno in giro per lavoro. Sì. E invece no, il carabiniere ha detto no, abbiamo notato una disciplina generale. E allora la giornalista ha detto sì, ma nel prossimo fine settimana sicuramente ci saranno problemi per il sabato e la domenica, vi aspettate problemi? E il carabiniere ha detto ma no, ci sembra che siano, ed era quasi dispiaciuta questa signora. Non ha trovato la notizia. Però attenzione, torna con noi. E lei è la nostra Manuela da Milano? È la nostra, chissà se ha rispettato il coprifuoco, la nostra Manuela da Milano. Manuela, è lei? Buongiorno Milano, sono io. Oh, la riconosco dalla voce. Come va? Ha rispettato alle 11.01 dov'era ieri? Vogliamo farci ero a casa mia perché io non sono una nottambula, per cui per quanto mi riguarda potrebbero chiudere anche alle 19, anche per me. A me personalmente non mi interessa, ma è comunque un dramma. No, guardi, stamattina a Milan sono, guardi, in uno stato di beatitudine, infatti volevo ringraziarla, volevo ringraziare lei ieri innanzitutto e anche lei per aver mandato in onda le illuminanti parole del nostro grande ministro degli esteri, il compagno Luigino Di Maio, perché vede, io avevo un grosso problema, ero costipata in questi ultimi giorni e appena Di Maio ha finito di esporre il suo micro pensiero mi sono catapultata sulla tazza e mi sono liberata, quindi volevo veramente Miranda, non ci sono parole per descrivere la pochezza, veramente la pochezza del pensiero. Infatti volevo suggerire, no, dato che comunque Di Maio è uno di noi, no, uno vale uno, 5 stelle, ecco, volevo suggerirgli, se fallirà come politico, cosa che ha già fatto, ha già ampiamente dimostrato, volevo suggerirgli di reinventarsi e volevo Di Maio ha un futuro nel mondo dei lassativi. Non esageriamo. Certo, guardi che poi dopo si attira tutte le critiche del Movimento 5 Stelle. Il ministro degli esteri che dice di fronte a degli italiani rapiti in acque internazionali, che dice sono andata a cercare. Manuela, lei che è molto sovranista, sa che non sono tutti italiani, questa cosa la disturba? Nel senso che questi 18 pescatori sono 8 italiani, 6 tunisini, 2 senegalesi e 2 filippini. Probabilmente il governo delle Filippine, del Senegal, del Marocco si saranno mossi molto meglio del nostro. Non è facile però andare lì da Haftar, che controlla, che non è un governo riconosciuto dall'Italia, noi riconosciamo al-Serraj, che adesso tra l'altro è dimissionario. Oggi l'ha toccata piano Manuela da Milano. Alessandro, è la tipica telefonata che ti si è ritorta contro. Tu pensavi di fare una telefonata simpatica e invece hai visto Manuela, che è partita con degli insulti pesanti. No. Sei pentito subito di averla chiamata. Adesso, la classica. Adesso sì, vabbè. Ti si è ritorta contro. Vabbè, saluto Manuela da Milano, buon weekend. Romualdo, che bel nome altisonante. Romualdo, dalla provincia di Monza e Brianza. Eccoci. Sì, era un... Buongiorno. Buongiorno. È un nome fascista. Così, comunque, lo dice. Oggi mi volete mettere un po' in difficoltà. Lei è qualche settimana che la vediamo in difficoltà. Ecco, Milan. Ecco. Perché? Perché ha perso parte delle sue caratteristiche di pacatezza e di oggettività. Ecco. Ultimamente sono fazioso. Che problemi abbia. Ognuno c'ha i suoi, io ce ne ho tanti, probabilmente qualcuno avrà anche lei. Ma senti, Manera come già contento. Manera è già contento. No, prego. Finire l'ascoltatore, ma noto. È oramai un vago ricordo. Ma riguardo a che cosa? Sia un po' ma più preciso. Perché... Il discorso che lei ci porta sempre qui, i problemi che poi ci sono, oggettivi di suo figlio che non può fare sport, che adesso deve andare sui mezzi pubblici. E andare a scuola mentre molte regioni le stanno chiudendo. Sì, ma lo racconto perché è vita vissuta, lei sì, mi può raccontare sì, la sì, sua, capito, no? Va bene, no, beh, io non racconto la mia vita, io parlo in generale dei problemi generali, e invece lei come conduttore, no, sì, si schiera da una parte. E questo non mi sembra... Esprimo le mie opinioni. Prima, non lo faceva prima di questa piccola, di 2 o 3 settimane fa. Io la seguivo tutte le mattine perché è una trasmissione interessantissima la sua, la conduce con abilità e mi spiace di essere intervenuto forse a portare un po' di malumore. Ma no, ma non è malumore, cioè... Milan, oggi schiaffoni da destra e manca, Questo per è un te. Vecchio ascoltatore. Romualdo, esprimo le mie idee dicendo poi sempre chiamate per dire che cosa ne pensate voi, no? Mi sembra... Comunque, abbiamo fatto un perfetto esempio di par condicio, perché Emanuele evidentemente era più spostato a destra. Questo signore mi sembra di capire, da quello che ha detto, che è un po' più spostato a sinistra, quindi non cosa vuoi di più? Comunque è vero, sei cambiato. Sono sei cambiato in peggio. Ovviamente in sono peggiorato, sì, sì, certo. Ricordo l'ho detto che godeva Manera, non vede l'ora di avere delle sponde. Guarda che ho ordinato il miccio di boe, adesso arriva il miccio di boe, ti ricordo sempre la passata del miccio di boe, il loco per Manera, ricordo non per sempre Romando. All'ascoltatore che si può parlare dei propri casi, perché si può passare dal particolare all'universale, quello che vive una persona grazie, con dei figli possono grazie. Essere le cose che vivono tante persone con tutti i figli, insomma, cioè mi sembra che sia... Ma poi io dico questo, ma mica per egotismo, dico quello che vivo da cittadino per dire che sono anch'io un italiano, come Romualdo, come tutti gli altri, e ditemi, questa è la mia, ditemi la vostra, tutto qua. Vabbè, sì. Quiz, allora facciamo una sfida, Lucchetti. Chi parlava di particolare universale? Chi era? Milan Lucchetti in ferie oggi. Che parlava di passare dal particolare facciamo universale. Una sfida Nespoli. Sfida Nespoli, traffico. 1, nessuno, 100 Milan. Vedi, adesso arriva un ascoltatore e dice: guardi che Milan, i tuoi racconti di vita familiare sono i più bei momenti della trasmissione. Diego, adesso io cosa faccio? Sono colto da questo dubbio, anche un altro ascoltatore continua a parlare della scuola, di suo figlio, per sensibilizzare l'opinione pubblica. Cosa faccio? Allora ieri abbiamo mangiato una fetta di tacchino, Mattia l'ha aggiunto degli spinaci, no Angelica, no vabbè, questo no, però cosa faccio adesso? Caro Leonardo, seguo Romualdo o seguo gli ascoltatori? Allora, io poi non dormo. Una pausa di riflessione. Prendi una pausa di riflessione, vai in aspettativa per un periodo. Va bene, vuoi sostituire anche me. La distinzione del particolare dall'universale si riferisce alla dottrina aristotelica del giudizio e del sillogismo. Dunque Aristotele, caro Leonardo, questa è la sfida Nespoli che vuole soppiantare ovviamente Milan Lucchetti. È tutto un voler soppiantare. Ci sono delle gelosie pazzesche qui in relazione. Sì, questo è vero. Vabbè, a te, Leo. Allora, di questi tempi sembra che a molti venga piuttosto facile fare delle semplificazioni. Così, ad esempio, se si ascoltano i telegiornali, sembra che i milanesi non cenino mai, sembra che si dedichino solo agli aperitivi. I milanesi nella vita fanno solo aperitivi. Sembra che a Milano siamo tutti parodia del milanese imbruttito, che già in sé è una parodia, quella dell'amico Germano Lanzoni. Fino a qualche anno fa Milano era identificata come la città grigia del lavoro con altrettanti luoghi comuni, la città dove le persone corrono e corrono anche se non hanno niente da fare, ma corrono comunque. Sembrava che in tutto il resto d'Italia, o quasi, ci si dedicasse a una vita spensierata, dove il lavoro era solo una parte, mentre a Milano solo lavoro secondo i luoghi comuni di una volta. Poi, chissà come, chissà quando, Milano ha cambiato immagine ed è diventata, soprattutto in questo periodo, la città della movida, degli aperitivi. Giunge nuova anche a me, ma è interessante saperlo. Io, in effetti, al posto della colazione, faccio subito un bel aperitivo con 2 stuzzichini e un americano sbagliato. Poi, invece di pranzare, altri stuzzichini e un bel mojito. Infine non ceno mai, di solito esco alle 23 per fare un ultimo aperitivo, stavolta a base di altri stuzzichini e almeno un paio di Moscow Mule, giusto per favorire lo sballo e lanciarmi notti folli nella movida milanese che si conclude alle 4 alle 5 di mattina con una bella colazione composta da stuzzichini e una birretta o un vino bianco, tanto per stare leggeri prima di coricarsi. Il lavoro? Di lavoro a Milano non se ne parla, almeno secondo alcuni mezzi di informazione, molti telegiornali. Milano è ormai la città della movida. Certo, in questi casi è abbastanza facile generalizzare, però per chi non abita o non frequenta Milano, bisogna ricordare che i luoghi dove più che altrove ci sono assembramenti sono 3 o 4, i Navigli, Brera, Corso Como e zone limitrofe. Se vai in piazza Udine, per dire, anche a Baggio, Quartaggiaro, Lambrate, di movida non c'è traccia, c'è qualche locale. Ma dove i baristi come il signor Jimmy del bar Jimmy alle 9 di sera vanno a casa e se devono preparare un cocktail prima non fanno acrobazie con lo shaker, insomma si vive normalmente senza movida dappertutto. Immagino già qualche ascoltatore di Napoli che adesso mi dice: hai visto cosa si prova a essere vittima dei luoghi comuni? Anche da noi a Napoli sembra che mangiamo solo a pizza e che andiamo sempre almeno in 3 sul motorino senza casco. Rispondendo a questi ascoltatori, dai quali però mi aspetto un bel invito a Napoli per mangiare a pizza, dico che in effetti tutta l'Italia è un po' un luogo comune. Però più o meno nel corso degli anni sono rimasti uguali città per città, invece i luoghi comuni di Milano sono cambiati. Si è passati dalla Shigera, la nebbia, alla movida, si è passati dai colletti neri di smog ai colletti bianchi di cocaina, almeno secondo i luoghi comuni. Però io invece confermo che i colletti qualche volta si ingrigiscono ancora per l'inquinamento. Sostengo che non tutti si drogano e che qualche volta perfino si cena normalmente a Milano. Io ad esempio ieri sera mi sono cucinato una bella zucchina, quella che avevo in frigorifero tanto tempo fa e che ora non so come è risorta. Sono i misteri della vita o più probabilmente sono i misteri o le amare realtà del lockdown. Non è vero che hai fatto la zucchina, dai. Non è vero, vero, non è vero. Sì, l'ho conservata, l'ho congelata, ho mangiato. Allora, zucchina. C'è chi mi dice di portare avanti la battaglia avanti con Scuola e Sport. Infatti ieri, quando ho visto che sia il sindaco Sala sia la ministra Azzolina si sono opposti alla decisione di didattica a distanza obbligatoria per i licei, mia figlia ci sarebbe dentro, questo lo dico per Romualdo. Ieri si è elevato proprio l'urlo: Sala, Sala, Azzolina, Azzolina. Potremmo fare la crasi anche: Salazzolina, Salazzolina, Salazzolina. Dai, fallo anche tu, Leo. Tu adesso ce la... tu. Ma ce la fai adesso a dire Azzolina? Vero che ti viene? No, sì, sì, ce la faccio. Ce l'avevi fatta l'altra volta. Sì, ce la faccio, ce la faccio. Quindi... Azzo. No. Ma come? Ma scusa, ma indietro azzo. Invece che vai... No, ce la faccio, lo sto dicendo, Azzolina. Faccio un po' fatica a dirlo tutto, ma ce la faccio. Perché tu sei di sinistra, Sala invece ti viene bene. Sala! Sala, Sala ti viene bene invece. Vabbè, no. Niente, siccome è corto, neanche l'inizio. Va bene, la seconda ora di Uno Nessuno 100.000 è dopo il giornale radio. Sai che avremo anche il grande Simone Moro che torna con noi, alpinista, e parleremo di questa disfida sul Monte Bianco tra Francia e Italia, una vicenda che dura da non so quanti centinaia d'anni. Dai, tra Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Tutti mercoledì a 2 di denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di 2 di denari con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Uno, nessuno, 100.000. If you're traveling to the North Country Fair. Ma nera non è la movida, è la Covid. On the borderline. Quando c'è la Manu che telefona, noi siamo il volume. To one who lives there. Ma Romualdo, il venuto con l'ultima fiocana. I dialetti io li adoro. Non possiamo dire la nostra, Milan, poi ci denunci. Quindi dobbiamo in qualche modo o stare zitto o seguire la tua linea. Ma dai, ma ieri l'ho anche detto che mi sono arrabbiato, ho scritto a uno ti denuncio e poi in onda ho detto chiaramente chiedendo scusa, richiedo scusa anche oggi che non lo farò mai, non l'ho mai fatto e mai lo farò. Comunque ieri mi ha chiamato il mio avvocato che è arrivata la tua denuncia nei miei confronti. Sì, sì. Le venuto giù con l'ultima fiucada, cioè, una volta si diceva con la piena. Si è venuto giù con la piena, come dire, l'ultima fiocada non l'avevo mai sentito. Fiocchi di neve, l'ultima fiocada. Sì, sì. E no, lo diciamo perché magari uno non conosce tutti i dialetti, giustamente. Io se uno adesso mi manda un messaggio in abruzzese, che faccio? Allora, adesso alle 10. Romualdo è venuto con l'ultima fiocada. La vengo giù con la piena, la vengo giù con la piena. Allora, il tema è questo. In Germania vogliono togliere, parola della Merkel, la parola razza dalla Costituzione. Anche nella Costituzione italiana c'è la parola razza. Vediamo un po' tu che fai il saccentone, lui il Piero Picchio che ha studiato, il virologo, in che articolo della Costituzione c'è la parola razza, caro Leonardo? È un articolo significativo, importante. È l'articolo 3, che però non ricordo, esatto. vado a leggere. Tutti i cittadini hanno pari dignità, sono uguali davanti alla legge, senza distinzione senza di sesso, di razza. Mm-hmm. E poi lingua religione. Telmo Pievani, buongiorno e benvenuto e ben ritrovato, Pievani. Buongiorno. Insegna filosofia delle scienze biologiche a Padova, è un divulgatore scientifico, ha scritto dei libri, ne avevamo presentato anche uno, anche col nostro Federico Taddia, se ricordo bene. Allora, Pievani, il tema delle razze, perché si vuol togliere questa parola? Perché è chiaro dal punto di vista dell'evoluzione dell'uomo che la razza non esiste, è un concetto che non c'è. Veniamo tutti siamo della razza umana, ecco, questo dobbiamo dire, o neanche della razza umana, si può dire. Ma diciamo che siamo della specie umana, che poi è divisa in tante popolazioni, in tanti popoli. Quindi il dibattito che c'è adesso in vari paesi nel mondo, anche in Francia l'hanno tolto da tutti i documenti amministrativi, è che la scienza va avanti e mentre 70 anni fa si pensava che potessero esistere le razze umane, e quello ovviamente è un articolo importantissimo, anche in Germania tra l'altro è l'articolo 3, contro ogni discriminazione di tipo razziale. Il paradosso qual è? Che nel frattempo nella scienza abbiamo scoperto che le razze umane proprio non esistono. Il motivo è semplice, perché la specie umana è molto giovane, noi siamo nati in Africa 200 millenni fa, l'australopiteco, giusto? Sì, molto tempo dopo, in realtà quelli sono esistiti 3 milioni di anni fa, ma noi Homo sapiens, proprio la nostra specie, nasciamo da un gruppuscolo proprio di pionieri africani vissuti molto poco tempo fa, quindi non c'è stato proprio il tempo perché ci dividessimo in tante razze geneticamente distinte. Cioè, se si studia il DNA non c'è distinzione tra un manera e un uomo del Congo o del Giappone o dell'Australia, no? Sì, lo sappiamo, tra un manera e, che ne so, un aborigeno australiano, di sicuro manera e un aborigeno australiano hanno il 99,9% del loro DNA di sicuro identico, in comune, e il resto sono piccole differenze, quasi tutte individuali. Sì, cioè che l'aborigeno è educato e manera no, però insomma, questa è una distinzione culturale. Esatto. Sì, è di culturale, va bene. Io torno domani. No, però è importante, in realtà il tema è molto molto importante, perché da qui deriva ovviamente dall'uso di razza tutta la questione del razzismo, cioè il 99,9% l'1 Perfetto. Per mille è quello che ci distingue da ogni altro essere umano. Cioè il DNA è uguale, quindi non esiste una questione di diverse razze. Però ecco, come la mettiamo con questa questione di toglierle dalla Costituzione? Cioè cosa ne pensa il professore? Beh, diciamo, in Germania c'è un dibattito molto bello e lo condivido, nel senso che alcuni non sono d'accordo, perché dicono da un lato che la Costituzione ha un valore storico, quindi a quel tempo era giusto scrivere in quel modo e simbolicamente bisogna tenerlo, che ovviamente ha senso anche questo argomento. E l'altro problema grosso è che non sappiamo bene con cosa sostituirlo, perché se mettiamo nazionalità, come dicono i francesi, non va tanto bene, perché non è che protegge tanto quanto la parola razza. Etnia, anche quella non va tanto bene. In Germania, secondo me, stanno scegliendo la strada giusta, cioè la proposta che è dei Verdi è quella di togliere razza, ma di metterci razzismo, cioè di mettere, anziché sulla base della razza, come c'è scritto anche nel nostro, mettere senza discriminazioni di tipo razzista o di matrice razzista. Okay. In questo modo si toglie la parola, ma l'aggettivo, il concetto rimane. Ma togliere la parola e basta? Chiedevo perché non va bene etnia. Beh, perché etnia è una parola che per gli antropologi, diciamo, non è ben definita, nel senso che non definisce davvero i gruppi, perché molte persone, per esempio, sono di etnia mista, sono, per esempio, i francesi la chiamano origine, però sai, è biologica, è culturale, insomma non è molto chiaro. I francesi hanno detto non discriminiamo nessuno sulla base dell'origine, però ci sono gli apolidi, ci sono quelli che non si riconoscono in una origine geografica. E quindi è ancora migliorato. Adesso, tra l'altro, Pievani, c'è un ascoltatore che ci scrive: sono medico e dico no, il DNA degli africani e dei caucasici, come si identificano i bianchi, è diverso. Sono medico. Adesso io devo entrare in questa diatriba che non conosco dal punto di vista scientifico, non so, Pievani, lei che ma risponde? Questo perché in ambito medico purtroppo si usa ancora il termine razza, però appunto la differenza tra un africano e un caucasico si misura in 1 per 1000 del DNA e quasi tutto è individuale, cioè sono mutazioni casuali. Poi è vero, nel dire che non esistono le razze, non stiamo dicendo che siamo tutti uguali, stiamo dicendo che siamo diversi tutti, perché è chiaro che un bambino svedese è diverso dal punto di vista dell'apparenza esteriore da un bambino, che ne so, senegalese, però quelle differenze sono pochissime, riguardano solo il colore della pelle e poche altre caratteristiche, e non sono sufficienti per distinguere quelle due persone in razze distinte. Quindi è un problema tecnico, non è che vogliamo togliere la parola razza per essere politically correct, è proprio una questione sperimentale. C'è anche una questione culturale, è intervenuta su questo Liliana Segre, senatrice a vita, perché Liliana Segre dice, ma qui è una questione diversa, dice razza resti nella Costituzione perché rimanga come monito contro l'odio. Qui entriamo però in una questione diversa, insomma, più storica, culturale, di memoria, no? Si può fare qualche cosa? Che ne pensi? È lo stesso argomento dei socialdemocratici, per esempio in Germania, che sono perplessi sul togliere. Penso che abbia ragione naturalmente la senatrice, nel senso che è vero, ha un valore storico e simbolico molto importante, però se noi lo sostituissimo con razzista rimane, anzi si rafforza ancora di più. E però ha ragione la senatrice nel fatto importantissimo che si può essere razzisti per tanti motivi diversi, purtroppo. Uno può odiare, che ne so, un'altra popolazione anche per ragioni culturali, perché non gli piace come si comportano. Quindi qui stiamo solo dicendo che sul piano biologico, genetico, le razze umane non esistono. Poi purtroppo il razzismo ha tante altre motivazioni, oltre a quelle terribili di tipo biologico e genetico del secolo scorso. No? In ogni caso il tema è molto molto sentito in Germania, appunto si è espressa anche Angela Merkel, il dibattito è molto aperto, in Italia un po' meno, devo dire che ci sono arrivati anche diversi messaggi che ci danno, anche insultandoci, dei radical chic. Beh, un po' manera in questo, è un radical chic, devo dire. Io dico sempre chic. Che con gente che scrive così: la razza esiste, basta, siamo diversi, vabbè, ma rimanete con tanto, a voi non vi si convince neanche se arriva il Padre Eterno a dirvi: caro, ti illumino e ti dico così. Cioè, ci sono le persone che rimangono convinte delle proprie idee sulla base di studi che non hanno fatto, in genere, peraltro. Per fare un esempio chiaro, sì. Secondo me la razza umana è come la plastica, nel senso la plastica è una, ma poi ci sono i vari polimeri che sono un po' le caratteristiche umane, culturali della plastica, e così sono le persone, facendo tutte la stessa razza umana, poi ci sono. Rimetti la sigla di Quark, per favore, perché il nostro Piero Angela Leonardo, il nostro Piero Manera. È così, professor Pievani, noi abbiamo qua un divulgatore scientifico vero, Telmo Pievani, e Manera, che vuole è in una fase in cui sta

Lui ogni tanto sfascia tutto quando si chiude in una stanza e basta, cioè sbrodolone in maniera. Tu sei un buonista. Ha ragione l'ascoltatore, sono d'accordo con lui. Bisogna chiudersi ogni tanto in una stanza e fare di tutto, tutto dentro la stanza. Sai che ci sono le stanze dove paghi, sì, no? E distruggi tutto. Ricordo. Ne avevamo parlato qualche ricordo anno fa. Perché? 10-11 anni fa ricordo che ne avevamo parlato. Grande, sì, cliente. Adesso secondo me andrebbero per la maggiore. C'è una rabbia. C'è una rabbia. Ma si figuri, ma caro ascoltatore, ma se molti mi dicono e mi scrivono, appunto, anche Romualdo dice: sei cambiato, sei aggressivo. Allora mettiamoci d'accordo, però. Dovete fare un sondaggio tra voi ascoltatori. Manera è aggressivo o no? È buonista o no? Ma scusa, è di sinistra devi o su di me? Sinistra? Perché devi girarla su, sì, di me, che le critiche arrivano copiose nei tuoi confronti? No, ha detto, siete due sbrodoloni, buonistoni, che non, ma non diciamo era riferito per a me, era riferito a te e all'altro, all'ospite di prima che parlava di razza. Ma perché ti dissoci, scusa? Ti dissoci da questa trasmissione? Ma non mi sto dissociando, sto interpretando correttamente il pensiero dello spettatore. Vabbè, dell'ascoltatore. Sentiamo Neviana dalla provincia di Roma. Ah, ti stai dissociando. Che nome, Neviana, che bel nome. È strano, sì, Neviana. Prego, prego, Neviana. Sì, infatti. Neviana. Sì, infatti non sono italiana, comunque sono una linguista. Ah, di dov'è Neviana? Scusi se ci sono di origine bulgara, ma da 40 anni italiana. Bello, bello, prego. Bello prima che sappia quello che devo dire. Per prima cosa le faccio una critica. Che non conoscendo bene il russo, lei continua a cantare l'inno sovietico, sì, con una pronuncia veramente pessima, indescrivibile. Terribile. E poi certo, le devo dire, sa che cosa significano le prime quattro parole? Союз нерушимый Республик Свободный. Sono due bugie. Unione costruita su Repubblica Libera. No, costruita no. Союз нерушимый, indistruttibile, che è già distrutta, sì, delle, sì, repubbliche, ma io non, libere. Ma io non è che vado a fare l'esegesi del testo, non lo cantavo così. Non cantarlo più, perché la pronuncia è quella che è. E poi a proposito delle razze volevo dire la mia. Sì. Non è una parola del passato, è una parola del futuro, razza. Perché quando verranno gli extraterrestri, come faremo a distinguerli da noi? Accidenti, questo non l'abbiamo posto come problema. Io sono di professione linguista, perché sono venuta a questa. Perché ci sono gli alieni, secondo lei? Ci sono. Quando verranno, ci saranno. Quindi attenzione, ma questo saranno diversi da è un noi problema, nel DNA, saranno è un molti, appunto per questo saranno molto diversi nel DNA gli alieni. Abbiamo la soluzione, noi, di razza umana e, esatto, razza aliena, esatto, diciamo. Noi siamo la stessa razza umana e loro alieni, basta, risolto. Neviana, quando arrivano gli alieni questo problema non ci sarà. Grazie. Neviana, comunque, posso chiedere una Neviana, non se ne vada, Neviana, prego. C'è ancora? Sì. Senta, mi fa un favore personale, può fare un'altra critica anche un po' più pesante ad Alessandro Milan, così? Qualcosa che non le piace di Alessandro Milan? No, di non dire mai più che sappia il russo. No, non ho mai detto, ho detto che ho studiato russo all'università e ho dimenticato tutto. Quindi tanto di sapere il russo. Ho studiato all'università scienze politiche, quindi università, si fa per dire. Milan, oggi schiaffoni da destra e manca, perché questa è la risata di Piero Picchio, che ho fatto scienze politiche, effettivamente. Va bene, ma guarda chi torna! Guarda chi torna, Leonardo, l'abbiamo richiamata, l'abbiamo ingaggiata anche. Radio Maria da Roma, Radio Maria da Roma, oh, buongiorno. La nostra 92enne, quasi. Ecco. Opinionista. E non mi chiami Radio Maria, che non mi piace Radio Maria. Non le piace, però lei va a messa. Dopo il suo intervento è stato un trionfo. La gente la vuole. Davvero? Ma ha sentito? Ma c'è il signore di Reggio Calabria che ci ha chiamato, ha detto che se avesse un po' meno anni si sposerebbe, la vorrebbe amare. Pensi, no, no, questi sono programmi che neanche 20 anni fa, 30 anni fa mi avrebbero interessato, perché il marito me ne è bastato uno e basta. Come va Maria? Cioè c'è un trionfo, cioè la gente vuole adesso sentire il suo parere, dopo che lei ci ha detto una disamina della TV stupenda, stupenda. Ecco, perfetto, è non tanto completa però, perché non mi avete lasciato parlare del processo della Martina, della moglie di Rutelli. Della Palombelli, no, perché i tempi radiofonici sono un po' serrati. Ha ragione. Dica qualcosa che non le piace oggi, su che cosa vuole farci riflettere Maria? Io sulla faccenda dei francesi e del Monte Bianco. Ah, bene, prego. Perché vede, io conosco bene i francesi, io ho abitato a Tunisi prima della guerra, da bambina. Sì. E con qualunque posto noi entrassimo, lei sentiva una voce che diceva: oh, le voilà les Italiens macaroni. Cioè gli italiani, quindi, gli italiani in maniera ecco, gli italiani macaroni, ecco, questa era la frase. Certo. Ecco. Però questa cosa negativa è legata a un trionfo, trionfo italiano, perché nel 1938 noi abbiamo vinto il secondo campionato del mondo e l'abbiamo vinto in finale contro i francesi. E quindi abbiamo un po' pareggiato, anche perché gli studenti italiani avevano fatto un finto giornale con una fotografia della squadra italiana con la coppa e sottoscritto e voilà les Italiens macaroni. E quindi allora a me non mi meraviglia niente questa storia del Monte Bianco, perché i francesi dove possono arraffare arraffano. Francesi arraffano, salutiamo tutti gli amici francesi all'ascolto. Anche io li saluto, quelli che sono amici, però c'è sempre un fondo di cattiveria nei confronti degli italiani, mi creda. Io l'ho incontrato in altri paesi del mondo e ho sempre sentito questa punta. Che secondo me è quasi una storica rivalità. La storica rivalità, sì, è vero, come tra inglesi e francesi. Però non lo so, con i francesi l'ho sentita di più. Una delle cose. Vabbè, Maria, ma io vorrei sapere se lei è contenta di essere la nostra editorialista. Paghiamo zero. Certo, guardi, io la mattina, siccome come tutti i vecchi dormo poco, e mi sveglio presto, verso le 7, così, 6:30, 7. E accendo la radio. Non mi piace tanto quella che conduce adesso la prima parte, meno male mi avete liberato della Lastella. Ma non dica così, ma tra l'altro c'è ancora. Ci dica chi non le piace, signora, ci dica bene chi non le piace, quelli che proprio non sopporta. È il nostro Manera, gli piace così. Cruciani, cosa ne pensa di Cruciani, il signor Cruciani? Cruciani mi piace molto. Facciamo tutto il palinsesto, dalla mattina alla sera. Spezia. Voti. Spezia non mi piace. Non le piace. Paolo Mieli che è con Spezia. Non sa perché, non mi piace più l'impostazione della prima mattina. Mi piaceva più quando c'erano quei 3-4 giornalisti. Telese. Dalle 9 in poi mi piace, io ascolto moltissimo. Trascuro un po' la parte economica perché non ne capisco niente. Meazza lo trova anche lei un personaggio un po' così. Ti ha detto che lo trascura Meazza la parte economica. Però aspetta Maria, adesso Nicoletti piace, chiudiamo Nicoletti. Con Nicoletti che deve andare al traffico. Un giudizio su Nicoletti. A Nicoletti mi piace moltissimo, proprio di un'umanità fantastica, mi piace molto. Sembra proprio la parente di Nicoletti. Maria, si fermi qui, tanto noi la chiamiamo ogni tanto, i tempi radiofonici sono questi, adesso affiniamo i tempi radiofonici, lei diventerà un editorialista che tra 20 anni spaccherà, ricordiamo ne ha 91, quasi 92. Vai! Uno, nessuno, 100 Milan. Cosa c'è a Gravellona Toce? Che c'è sempre traffico. Cosa c'è a Gravellona Toce? È un po' come Amazone. In realtà quella è un'autostrada dove non c'è quasi mai traffico, quella per Gravellona. Secondo me lo inventano i signori che dicono il traffico. Non ma è vero che c'è, sì, ci sono problemi a Gravellona Toce. Mi piace dire il nome. Esatto, te ne immagini la signora Maria che ascolta Cruciani quando parla con le pornostar? Beh, ragazzi, 91 anni, ma è un'immagine stupenda, stupenda. Vabbè, vabbè. Che succede? Ci sono dei beep. No, è arrivato con noi il clown Neronello. Buongiorno, amico dei bambini. Che si troverà in difficoltà adesso, come si torna? Dovrò tornare probabilmente a fare, sono già tornato a fare le feste in smart working da casa, col video intrattengo quei cani figli del demonio. Sì, i bambini, i piccoli bambini. Esattamente. Allora, come forse sa, prima avevo un'impresa, un altro lavoro, un'impresa di pompe funebri, facevamo anche bare personalizzate. Per esempio, sulla bar di un pellettiere avevo scritto alla fine: ha tirato le cuoia. Non tutti i parenti però la prendevano bene. Sì. Ed è per questo che ho smesso con le pompe funebri, mi sono reinventato clown per bambini per intrattenere quei cani. Esco da casa mia già truccato da clown e appena arrivo nelle case, almeno quando lo facevo dal vivo, facevo subito un indovinello per far divertire i bambini. Per esempio, bimbi, qual è? Questo è molto semplice. Molto. Il ballo più odiato dai gatti è il can-can. Ah, beh. Molto bella. Molto. Divertente, direi. Da sbellicarsi dalle risate. Esilarante, sì, sì. Da smascellarsi dalle risate. Appena detto questa battuta, uno di loro ha preso un bambino, ha preso un lanciafiamme dalla sua cameretta e me l'ha puntato contro. Allora gli ho detto: bimbo, cane, vuoi fare una cosa davvero divertente? Bimbo o provalo. Cane? Bimbo cane. Bimbo cane, sì. Fai una cosa divertente, prova a unirti con la graffettatrice tutte le dita della mano e poi fai ciao ciao. Stava per succedere l'irreparabile quando è arrivata la madre di quel bimbo cane e mi ha detto: Neronello, lascia stare i bambini, piuttosto vieni qui tu a farmi un salutino. Ci siamo appartati nella sua camera e ho finalmente potuto testare il mio nuovo jingle che fa: Neronello non smette mai sul più bello. Ma ormai stava scadendo il mio tempo, i bimbi mi reclamavano, così sono sceso in sala e ho raccontato una delle mie favole, le favole del clown Neronello per tutti i bambini del mondo. C'era una volta un regno prospero dove la campagna era fertile, i sudditi felici e il sovrano giusto e saggio. La vita continuava senza preoccupazioni e ogni giorno vi erano matrimoni, nascite e banchetti. Finché una notte improvvisamente accadde l'inaspettato. Dalla foresta giunse al villaggio un terribile drago sputafuoco che riuscì a entrare al palazzo e rapì la principessa. Il re e la regina erano disperati, non sapevano cosa fare e si rivolsero al gran ciambellano di corte, Ortodonzio, così chiamato a causa della sua dentatura complessa. Ortodonzio, ti prego, aiutami a riportare a casa mia figlia, disse il re. Mi dia qualche tempo per mettere in pratica il mio astuto piano, rispose Ortodonzio, mentre si specchiava in un coltello d'argento per togliere dal prezzemolo rimasto intrappolato nella sua dentatura. Tornerò presto da lei, o mio side. Giorno dopo giorno il re e la regina aspettavano impazienti, quindi Ortodonzio finalmente arrivò. Ho due notizie, sire. La prima è che ho dato al drago 50.000 polpette avvelenate e l'ho reso inoffensivo. La seconda è che la principessa è incinta di me. Era meglio fosse stata incinta del drago, rispose il re piangendo, ma ormai il danno è fatto. Quindi vi regalerò un bel appartamento e tutto quello che avrete bisogno per mia nipote, quando nascerà. Grazie, sire, in effetti con quel che costano i pannolini. E fu così che Ortodonzio iniziò a farsi mantenere e visse per sempre felice e contento. Bimbi, qual è la morale della favola? Nessuna. Se fate di tutto per governare in modo saggio, a casa vostra arriverà un terribile drago sputafuoco. Se invece avete sempre in tasca 50.000 polpette avvelenate per abbattere i nemici e sapete entrare nei letti giusti, riceverete un bel appartamento e vivrete per sempre felici e contenti. Oh. Questa è la morale della favola, bella, cari bella. Bambini. Arrivederci con la prossima favola e le prossime avventure del clown Nerunello, l'amico dei bambini. Yup. Oh, che bello, che bello, che bello, che belle morali che lei insegna ai bambini. Sono sempre favole molto formative per introdurre sì, sì. con successo i bambini sì, sì. Nella vita quotidiana. E va bene. Va bene, caro clown Nerunello, ha un weekend di tante feste programmate? Spero di no. Avrei uno spettacolo, se non verrà annullato a causa del Covid, domani sera a Fiorenzuola. Dove esattamente? Al teatro di Fiorenzuola. Dove? Teatro di Fiorenzuola. Che teatro? Non ci sarà Non ci saranno teatro. Molti teatri a Fiorenzuola. A che ora? Ale, questa è una bella domanda. Perché lei non sa neanche a che ora... In che teatro variare. E forse non sa neanche se c'è. So che sarò insieme all'amica Claudia Penoni a fare spettacoli insieme a lei, ma il nome del teatro e anche l'orario sono un mistero. Tanto dice, lo sa Claudia più o esatto. meno. Esatto. Claudia, dov'è che mi devo presentare? Cioè, questa è la situazione. E vabbè, domani a Fiorenzuola, in un teatro imprecisato, a un'ora che non si sa bene quale sia, il nostro Leonardo Manera con Claudia Penoni. Chissà. Ci troviamo lunedì alle 9. Ale. Il venerdì resta fuori. Che è venerdì. Ecco, Ricciani mi piace molto, mi piace molto. Uno, nessuno. Uno, nessuno, nessuno, centomila. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.